ruberò per te. La luna se ruberò per tutti quelli come me, che hanno avuto poco e niente nel cuore, in mente, nell'anima, nell'amore, nella carne, niente da mangiare, poco o niente. Ruberò per te rose nere, rose del giardino di Morrison. Mi stenderò come un incanto vero su poemi decadenti. Combatterò e stringerò i denti, sfiorando anime, passando a stento tra fiori selvatici di rimari nuovi. Uomo nuovo, nuova rinascenza dall'ori. Sfioro cerchi concentrici d'alberi di tuoni. Gocce di memoria di te, campanelli di scuole, sole senza svuotati. Studenti, vote, ora uomini spauriti da insegnamenti inutili, dove rabbia e grazia per strada fanno pance piene, flow in vene nere, tossiche. Guardarne dirai non più povere per sempre, non può piovere per sempre, non può piovere per sempre, povertà e miseria sulla gente, liquori di languori, di pianti di bimbi, ammalati da noi, genitori di opere che danno da mangiare a futuri bimbi, verseggi di versetti di abracadabra, sfama bimbi lochi, su rari di nuovi giochi, finalmente nuovi. Non può piovere per sempre, non può piovere per sempre, ruberò per te la luna, perché non può piovere per sempre, povertà e miseria su genti di cuori, di languori, di pianti, di bimbi ammalati da noi, genitori di opere che danno da mangiare a futuri bimbi, verseggi di versetti di abracadabra, sfama, bimbi, lochi surali di nuovi giochi, finalmente nuovi. Ruberò per te la luna, se farà paura questo mondo, e per quelli come me ruberò la luna, se ruberò per te rose nere, rose nel giardino di Morrison. Mi stenderò come un incanto vero su poemi decadenti, combatterò e stringerò i denti, sfiorando anime, passando a stenti tra fiori selvatici di rimari nuovi. Slenga va fuori da una classe di allori consumate da strade di sangue ed onori. Mettici la passione di un fuori classe, ruberò per te fuori classe. La luna se ti farà paura, se con il mio poem ruberò per te. Uomo nuovo, nuova rinascenza dall'ori, sfioro cerchi concentrici di alberi, tuono gocce di memoria di te, campanelli di scuole, scuole senza studenti vuote, ora uomini spauriti da insegnamenti inutili, dove rabbia e grazia per strade fanno la pancia piene, flow in vene nere, che a guardare tossiche non può piovere per sempre, povertà e miseria sulla gente.